pau, acabassa, arau, rim, pau, passa, acabassa, rim, pau, acabassa, arau, pacata, pacata, pacata, catuta, pacata, pacata, rim, pau, pacata, pacata, pacata, catuta, pacata, pacata, passa, acabassa, pacata, pacata, pacata, catuta, pacata, pacata, rim, pau, pacata, pacata, pacata, catuta, pacata, pacata, rim, pau, pacata, pacata, catuta, rim, pau, passa, acabassa, rim, pau, acabassa, arau. Non vi dimenticate che abbiamo tutti un appuntamento sabato prossimo a Rimini, discoteca Altro Mondo, ore 22:30 all'incirca. Se volete ci sono dei pulmini che girano per l'Italia e vi facilitano l'impresa. Per informazioni più precise inerenti all'evento e al pulmino controvento, potete andare sul mio sito www.gigidagostino.com. Vi si aprono una serie di finestre, quelle che non vi interessano le chiudete, le altre le aprite, vi affacciate e trovate quel che cercate. Oh, ma che poeta sono! Baby, wanna get down, I wanna beat you, baby, wanna get down.

Di robe scolastiche non ne so molto, ma se non erro, oggi sono cominciati gli esami della maturità, credo. Se così fosse, in bocca al lupo. E appena finite, iniziate a pensare a come applicare il vostro sapere, la vostra conoscenza nelle cose pratiche della vita, perché la scuola è utilissima, ma da sola non basta. In altre parole, sempre se riesco a trovarla. Quello che voglio dire è che tutti quegli anni passati a scuola, tutto quel tempo passato a studiare, se non è applicato a qualcosa di pratico, non è nient'altro che un accumulo di dati, una serie di cifre, di date, di parole che risiedono nelle cartelle del desktop del vostro cervello. Desktop, desktop, desktop, si dice. Ma sogno o son desktop? Questa è veramente vergognosa. Ma per fortuna il cammino non si sofferma su queste stupidaggini. Fa finta di niente e va avanti. Ojo già. Sono finiti i tempi della Toons Toons. Con Techno Ones e compagne si torna indietro. Prosegui il cammino della Murto Jour 2. Rifletti su questa critica da un maschio etero che però ti ama. Morgan L. Inchia Morgan. Io non termino nessun tipo di cammino, io li proseguo tutti, e è proprio questo che mi fa sentire vivo. Non ci sono per me i tempi per quel tipo di musica e i tempi per quell'altro tipo di musica. Generi, chiamali come vuoi, insomma, parliamo piuttosto che di generi musicali, di caratteri diversi. Quindi quello che è per te è il cammino della Murto Jour 2. È dentro di me da sempre e ci sarà per sempre. La stessa cosa vale per i miei viaggi ipnotici, di ritmi fatti anche solo da suoni, da rumori a tempo, da quei moduli ripetitivi, ipnotici, che sembrano sempre uguali, ma non lo sono per niente. Lì c'è un po' il concetto delle onde del mare, del movimento di chi fa l'amore, del giorno e la notte. Insomma, potrei andare avanti per ore, ma credo che il concetto sia chiaro. Io mi sento vivo proprio perché non stagno. Se un giorno scopro che un piatto di riso mi fa impazzire, da quel giorno non mangerò soltanto riso. Da quel giorno nella mia vita ci saranno anche dei piatti di riso. Ma come potrò mai abbandonare le fragole, la cioccolata, pizza, i frutti di bosco. Mi è venuta fame. Insomma, si è capito il punto. Lì c'è un po' il concetto delle onde del mare, del movimento di chi fa l'amore, del giorno e la notte. Insomma, potrei andare avanti per ore. Vabbè, insomma, tutto sto concetto è un po' complesso, andrebbe approfondito, ma adesso non c'ho proprio testa. Di Gigi D'Agostino. Take my heart and fly up to the paradise.

piace, così la storia è la scrivila tu, magari più bella. Se non ti piace, così la storia è la scrivila tu, magari più bella. Magari più bella.